Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, piove in mezza Italia e piove di brutto sui mercati finanziari. Che cosa è successo? Cercheremo di capirlo lungo tutta la puntata. Ahimè, anche oggi si preannuncia una puntata, non dico monotematica, ma quasi. Cercheremo di rasserenare il clima con qualcosa anche di più positivo, ma insomma già l'avvio questa mattina era stato negativo. Non si immaginava, devo dire, una chiusura come quella che si sta profilando, ma insomma le borse hanno iniziato a perdere in mattinata e poi l'euro soprattutto a metà giornata era sceso sotto quota 1,31 a 1,3094, mo si appresta ad andare anche sotto quota 1,30, siamo a 1,32, 1,302 e quindi vicinissimi alla soglia di quota 1,29. Devo dire che, come molti scrivono, non è l'euro a preoccupare in questo momento. Un euro a 1,30 è ancora un euro molto forte nei confronti del dollaro. È il segnale che arriva, cioè il fatto che a nemmeno due giorni dall'accordo dei paesi dell'Eurogruppo, 110 miliardi in tre anni per la Grecia, di nuovo l'ondata di speculazione, sì, comunque di scommesse su un'Europa che avrà difficoltà a tenere in piedi i conti pubblici, che dovrà comunque essere messa sotto sorveglianza, si abbatte su tutte le borse europee. Dicevo, l'euro ha aperto là le danze, poi Atene e Madrid sono affondate letteralmente. Atene è arrivata a perdere il 7%, Madrid viaggia sul 5% di calo, e le altre borse. Allora, Parigi meno 3,80, Francoforte meno 2,60, Londra meno 2,20%, ma la peggiore di quelle più grosse è Milano, meno 4,6%. Pesante il calo, perché insomma è di due punti superiore a quello di Parigi e di un punto superiore a quello di Francoforte e di un punto superiore a quello di Parigi. Andrei cauto nel dire che alla luce di questi cali si possa stilare la classifica dei paesi più a rischio. Milano, per esempio, lo dico a chi ci sta già scrivendo al 349-238-6666, Milano ha un peso dentro la borsa delle banche molto forte per quello che compone poi l'indice complessivo, quindi rispetto a altre borse sicuramente può risentire di più. Oggi sotto pressione sono soprattutto le banche, però insomma meno 4,5 è la peggiore dopo appunto Atene e Madrid, segue Parigi e poi Francoforte e Londra. L'America, beh, l'America sta pigliando una bella scopola anche lei, perché il Dow Jones perde il 2,20%, e questo è interessante perché evidentemente il problema delle vendite non è solo su scala europea, per quanto la vicenda in questo momento che sta guidando l'ondata ribassista sia tutta europea. Racconteremo adesso anche come si stanno muovendo gli spread, un termine che ormai molti di voi hanno imparato a conoscere, cioè la differenza tra quanto rende un'obbligazione tedesca e quanto rende un'obbligazione greca. Maggiore questa differenza, più a rischio, maggiore quindi il premio che un paese deve pagare per farsi finanziare il debito. Beh, vi anticipo che siamo di nuovo a un record nella differenza tra quanto rende l'obbligazione greca e tedesca. Siamo praticamente al 9,32%, la differenza è quello che rende l'obbligazione greca, e la differenza è del 6%. Non siamo ancora al record del 28 aprile, quando la differenza arrivò all'8,27%, ma insomma ha ripreso a correre. Anche i credit default swap, ossia i CDS, il premio sul rischio paese, sono cresciuti a 681 punti base, per cui, come spiegano gli analisti, a questo livello vuol dire che le probabilità di una bancarotta della Grecia nell'arco di un arco di tempo di 5 anni sono superiori al 42%. Non mi chiedete come si arriva a questo calcolo, diciamo un po' come quando uno va a assicurarsi, il premio che paghi, insomma si dice, vabbè, se tu hai queste caratteristiche ci sono probabilità alte che tu possa avere questo tipo di problemi. Ecco, lo stesso ragionamento fanno i mercati. 42% le possibilità che la Grecia vada in default. Ancora, cosa aspetti a mettere il gufo Barisoni? Un attimo, iniziamo, no? Qui nelle sale operative panico totale, scrivono altri ascoltatori, adesso ne parliamo, tranquilli, tranquilli, si fa per dire. Comunque, il gufo non lo mettiamo a caso, lo diamo a un uomo dell'Ocse, adesso lo ascolteremo, perché oggi ha parlato il segretario generale dell'Ocse, e è stato anche abbastanza così cautamente ottimista prima che venisse giù tutto, magari ha detto insomma ci abbiamo messo, i paesi europei ci hanno messo troppo tempo per organizzare il salvataggio della Grecia, ma finalmente ora abbiamo buone notizie. Lo ha detto alle 12:50, dopodiché i mercati, non in coincidenza, ma sono tutti venuti giù. E i titoli, vabbè, sotto pressione soprattutto le banche. In alcuni casi si potrebbe parlare di crollo, perché insomma a livello europeo. Da noi Intesa San Paolo perde il 6,91%, Unicredito perde il 6,70%. Poi c'è Fiat, settore auto è molto coinvolto ed è uno dei motivi per cui adesso parleremo di Spagna. Comunque, Exor meno 6,6, Fiat meno 6,6, Banco Popolare meno 6,5, Pirelli meno 6,4, CIR meno 5,70. Stima Microelectronics meno 5,20, come Ital Cementi e come Mediolanum e come Unipol. Il 5,1 lo perde anche la Popolare di Milano, il 5% il calo di Prismian, il 4,90 quello di Azimut, il 4,60 quello di Ubibank e di Mediobanche, delle Generali. Mediaset meno 4,4 come Fondiaria SAI, 4,2 lo perde Finmeccanica, Geox e il Monte dei Paschi. Mi fermo a chi perde più del 4%, perché tanto... Impregilo meno 4, Geox l'ho detta, tutti gli altri perdono tra l'1 e il 3%. In sofferenza oggi anche i titoli energetici, Eni meno 3,1, Enel meno 3,1, Telecom perde il 3,2, A2A il 3,2. Insomma, una giornata leggera, bene Intec sul risparmio, più 8,90, Zucchi sull'ordinario, più 7,20, Kerself di nuovo più 3,5. Il peggior titolo Deutsche Telekom, meno 9,3%, e anche Stefanel perde 7,2%. Questo è il quadro per ora. Che cosa è successo? Lo spieghiamo tra un minuto. Sopra di nuovo le agenzie di rating, non perché abbiano fatto delle mosse vere e proprie, ma insomma hanno messo in guardia su vari timori. Io direi di partire subito con le notizie in breve e poi cerchiamo di capire, collegandoci con chi opera sui mercati, quindi gestisce compravendite e patrimoni, che cosa stanno vedendo dalla loro prospettiva. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi avremo alcuni stralci dell'intervista di Mario Platero a Nuri Rubini, grande economista, quello che predisse la crisi per primo, e altri passaggi. Comunque, le notizie in breve. Allora, grande attesa per sto gufo, attenzione, un attimo. Allora, il petrolio in calo, $84,5 al barile, British Petroleum, il titolo, cioè piove sul bagnato, proprio il caso di dire, ma insomma il titolo della BP, legato però al disastro nel Golfo del Messico, è crollato ai minimi da 7 mesi, meno 5,5%, dal giorno dell'incidente British Petroleum ha perso il 16%. E invece la benzina da noi continua a aumentare, il diesel APIP e anche AGIP, che sta la prima a ritoccare i prezzi, sfiora 1,29 euro al litro. I consumatori denunciano una situazione dei carburanti fuori controllo, la stangata per, dicono Adusbef e Federconsumatori, la stangata per le famiglie italiane diventa di 469 euro, 264 per costi diretti, 205 per costi indiretti. Vabbè, dell'euro sul dollaro abbiamo già detto, dell'America abbiamo detto, insomma, volete sapere dei settori? Allora, al di là del settore bancario, pensate che National Bank of Greece perde quasi l'8%, Piraeus il 7,71%, Alfa il 7%, qui mi riferisco ai bancari greci. Però c'è anche un timore di una stretta fiscale sugli utili in Australia che ha colpito i gruppi estrattivo minerari. Ora, questo è così margine, qualcosa di non così significativo rispetto a quello che sta capitando sul mercato. Però dicevo, in Spagna molto pesante anche il BBVA, il Banco Bilbao Vizcaya, perde oltre il 6%, il Banco Santander arriva a perdere quasi il 6%, a Lisbona il Banco Commerciale lascia sul campo il 3,70%, insomma, e anche adesso anche un po' di più, oltre il 4%. Quindi i bancari spagnoli, iberici e anche nostri, molto molto sotto pressione. Vabbè, le notizie in breve si fermano qui, perché oggi altro non c'è. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, speravamo di fare un'altra settimana, o meglio una settimana diversa, invece torniamo ai fondamentali, torniamo come nel gioco dell'oca alla casella di partenza, torniamo a cercare di capire perché a questo punto, nonostante le rassicurazioni tedesche, nonostante ci siano 10 miliardi, nonostante l'Eurogruppo, quindi nonostante pur con lentezza la situazione europea si sia risolta quanto aiuti la Grecia, qui il fiammifero, il cerino, passa da Atene a Lisbona, o per meglio dire da Atene a Madrid. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vorrei partire, diciamo così, da una buona notizia, anche perché poi ne parleremo. La cassa integrazione in Italia ad aprile è calata a meno 5,7% rispetto al mese di marzo, c'è un più 52% di ricorso alla cassa integrazione rispetto all'aprile del 2009, ma insomma è la prima volta nel 2010 che le ore autorizzate di cassa integrazione diminuiscono nel rapporto, nel confronto mese su mese. Per le buone notizie ci fermiamo e concludiamo qui, perché altro oggi non vedo. Non parleremo chiaramente del ministro Scajola, è un tema che è tutto politico, di economico non c'è niente. Parliamo invece di quello che è successo da questa mattina, devo dire anche abbastanza sorpresa. Tanto a sorpresa che questa mattina il segretario generale dell'OCSE, Angel Gurria, era a Roma, ha incontrato il ministro Tremonti e altri esponenti del governo e ha fatto numerosi elogi all'Italia, ha detto che l'Italia ha fatto dei progressi significativi nel tagliare i costi, nel liberalizzare il mercato, ha elogiato direttamente il ministro Tremonti per come ha tenuto botta alle varie richieste che sono arrivate dai vari ministeri di aumentare la spesa pubblica. E poi, grazie alle riforme intraprese dall'Italia, soprattutto nel campo della pubblica amministrazione, i costi delle imprese sono scesi di 4 miliardi. In particolare, ha ricordato il segretario generale dell'OCSE Gurria, per le piccole e medie imprese. E poi ha detto, bene Tremonti, non vi è stato un aumento del fabbisogno, si prosegue in Italia con le riforme. Visto che oggi a Roma veniva presentato il rapporto OCSE, e poi si è occupato della crisi, ed ecco perché dico, evidentemente anche il segretario generale dell'OCSE non se l'aspettava questa giornata, perché ha detto, insomma, finalmente abbiamo buone notizie, ci abbiamo messo troppo tempo, ma ora ci siamo. Abbiamo buone notizie, finalmente. Io ho detto molte volte che abbiamo preso troppo tempo per arrivare a questo momento, ma già lo abbiamo, già siamo là. Io spero che i mercati hanno una reazione positiva, questo aiuta alla stabilità, questo aiuta alla prospettiva. In questo caso particolare, uno dei problemi che hanno provocato questo shock è che abbiamo passato del 4 al 13%, e questo non è una questione di rounding up, eh? È una questione di surrounding up, di evitare i controlli, di evitare la disciplina. E questo è qualche cosa che non stava nel sistema, è per quello che ha preso il sistema un po' per sorpresa. Non ce ne abbia il segretario generale dell'Ocse, ha messo a iniziare un intervento dicendo abbiamo finalmente buone notizie, poi chiudere la giornata in borsa con Milano che perde il 4,30%, le banche che perdono tra il 6, il 5, il 6, il 7% adesso Intesa San Paolo. Vabbè, allora, che cosa è successo? Perché poi la domanda è sempre questa, ammesso che vi sia una spiegazione. Alcuni di voi vogliono risentire la nostra astrologa che aveva consigliato di vendere a fine aprile. Adesso guarda, andiamo a controllare questa cosa perché non vorrei nemmeno creare dei falsi miti. Se scopriamo che l'astrologa, adesso io non me la ricordo a memoria, ha detto di vendere a fine aprile, appuntamento fisso con i mercati. Però restiamo invece su chi con i mercati lavora tutti i giorni. Dottor Daniele Beltrami, direttore generale di Aperte SGR, buonasera. Buonasera a lei, gli ascoltatori. Lei non fa l'astrologo, ma gestisce milioni e milioni di euro appunto per Aperte SGR. No, però questa cosa la verifichiamo, lo dico anche in regia, cosa ha detto l'astrologa, perché sarebbe veramente incredibile. Comunque, mi racconta, mi spiega che cosa è successo dal osservando dal vostro punto di vista, perché insomma abbiamo fatto sentire Gurria non per sfotterlo, ma insomma questa mattina la situazione era ancora abbastanza, sì c'era un calo, 1%, 1,5%, ma insomma c'era ancora l'ottimismo post accordo dell'Eurogruppo, post annuncio dei 110 miliardi. Poi che è successo? Quello che è successo è, in parte l'ha detto lui subito all'inizio, ha detto con un po' di ritardo siamo arrivati a una conclusione, questo il mercato l'ha apprezzato, quel ritardo decisionale, il vuoto politico. E dall'altra parte poi il piano di intervento annunciato e promosso per la Grecia sicuramente lascia qualche luce d'ombra per la sua realizzazione, quindi è chiaro che l'effetto rischio contagio o mancata applicazione in pieno, in totale, in toto di questo piano di intervento da parte del governo greco qualche dubbio l'ha lasciato. Certo è che la nostra sensazione è che l'asta, prima asta che è prossima il 19 di maggio, sarà ampiamente coperta, quindi non ci sarà nessun tipo di problemi sul rimborso della prima scadenza che è il 19 di maggio, quindi la turbolenza se ci sarà ancora giornate come quelle di oggi ci saranno al massimo fino al 19 di maggio, ma d'altro canto è chiaro che questa situazione di tensione ha aperto il rischio sugli altri paesi che, come ricorderete tutti, il giorno che fu downgradata la Grecia, il giorno prima se non sbaglio era già stato downgradato il Portogallo e la Spagna se non ricordo male il giorno successivo. Sì, quindi questo è d'accordissimo, però io lascerei un secondo stare la Grecia per un attimo, perché le risulta, cioè, visto che poi lei sui mercati ci lavora tutti i giorni per gestire i patrimoni, che si è sparsa la voce a metà mattinata che le varie agenzie di rating, le tre sorelle, diciamo Moody's, Standard & Poor's e Fitch, stavano mettendo sotto osservazione il debito spagnolo ulteriormente? Qualche notizia in questo senso era uscita anche sul fabbisogno che la Spagna avesse di circolava, che avesse bisogno di un intervento simile a quello della Grecia, molto più pesante per certi versi, e quindi è chiaro che da lì in poi il mercato ha iniziato a correggere la tendenza, anzi ad accentuare la tendenza già di calo della mattinata. Chi ne ha pagato le fatte le conseguenze chiaramente il settore finanziario, che è il primo settore che riceve purtroppo la crisi economica che si viene a creare. Allora, come scrive un ascoltatore, oggi siamo nella fetta, mi sembra proprio di sì, però meno 7,20, vi do anche la chiusura, visto che stiamo praticamente in chiusura, meno 7,20 Unicredito, meno 6,90 Intesa, meno 6,70 Pirelli, meno 6,50 Banco Popolare, Fiat, meno 6,30 Exor, meno 6,5. Dicevo, le agenzie poi hanno parzialmente smentito, però io volevo capire un'altra cosa. Voi i movimenti che vedete, è chiaro che non hanno nome e cognome, ma in questo momento chi è che si può avvantaggiare di un'ondata così speculativa? Perché poi qualcuno vende e ovviamente qualcun altro compra, ma chi va a vendere, cioè, deve avere qualche buon motivo per farlo dopo tutti i ribassi che ci sono stati. Con la seduta di oggi le borse europee hanno completamente annullato i guadagni da inizio anno, per cui torniamo a capo 12, a fine 2009. Le chiedo, chi può avere interesse? Speculatori o comunque trader europei o americani? credo che il solito discorso sia da estendersi al costo di copertura dei rischi ipotecari dei debiti dei paesi sovrani, quindi i famosi CDS, i credit default swap, quindi chi genera mercato, chi fa mercato su quegli strumenti potrebbe avere un interesse, tant'è che è aumentato il costo di questi strumenti, quindi aumentando la volatilità non avevo mai dubbio che questo cresca. Forse una spiegazione indiretta c'è nel dollaro che in questa giornata è passato da 1,3213 a 1,3022 e quindi è chiaro che oggi il mercato americano rappresenta il porto, non dico sicuro, ma è un porto dove andare ad approcciare. Perché? Perché ci sono segnali di ripresa negli Stati Uniti, perché comunque la disoccupazione è in calo, perché comunque c'è una politica monetaria che potrà cambiare entro la fine dell'anno e c'è un dollaro che forte della debolezza dell'euro si sta apprezzando e quindi forse l'America ne trae beneficio da questo punto di vista, anche potrebbe avere interesse visto questo forte debito. Beh, chissà se i flussi arrivano proprio da lì. Ancora ci chiedono gli ascoltatori, voi come vi state muovendo, o meglio, c'è una domanda che mi interessa particolarmente, scrivono alcuni ascoltatori, ma attenzione, non è che le borse in realtà avessero corso troppo nei primi mesi dell'anno, obiettivamente si è arrivati a rialzi anche importanti, intorno al 15%, considerato che l'economia europea non riparte, che continuiamo a essere di fronte a una jobless recovery, cioè una ripresa senza occupazione, e allora non è che la gente va in cassa integrazione, i consumi calano e le borse possono continuare a ignorare questa situazione. Non c'era un eccesso di entusiasmo prima? Ma sicuramente parte di questa situazione è anche legata a questo aspetto, il mercato in effetti aveva cosiddetto rallentato tanto in quest'ultimo periodo e quindi c'era bisogno di una pausa di riflessione. Questa pausa di riflessione si era innescata col down rating della Grecia, per poi dopo essere rientrata abbastanza, perché forse il mercato greco ha subito qualcosa, un po' i mercati europei, ma oggi è significativamente la prima giornata di pesante ribasso, perché questo 4,25 sulla borsa italiana è significativo, ma anche mediamente i 2,5-3% sui mercati europei sono sicuramente molto significativi. C'è da dire, oggi il mercato italiano perde il 4,25 perché è pesato per il 35% di titoli finanziari, quindi è chiaro che il calo del settore finanziario pesa molto di più sul mercato italiano che non sugli altri mercati europei. Depurato da questo fatto, credo che l'Italia, come diceva lei poc'anzi, ha dimostrato appieno che ha saputo gestirsi bene in questo periodo di crisi. No, ma infatti adesso faremo ascoltare anche Gurria che fa gli elogi all'Italia, alla gestione Tremonti, ci mancherebbe. Era importante per far capire che noi perdiamo tanto, non perché siamo più a rischio della Francia o della Germania in questo momento, ma perché abbiamo un indice molto basato sui titoli bancari, che sono quelli maggiormente sotto pressione. Chi ci sta guadagnando, o meglio... sono le vendite allo scoperto il vero problema? Potenzialmente non lo so, dovrebbe essere così in teoria, potrebbe essere anche trading giornalieri di fatto, di certo il trend è ribassista, sì. In questa fase è ribassista, non credo che la situazione, certamente io credo che la cosa che sia veramente eclatante è il fatto che un paese dell'area euro che ha rispettato i parametri per entrare al suo tempo, che è controllato da una banca centrale e da una commissione europea e quant'altro, al di là di possa aver fatto delle situazioni di bilancio un po' allegre, chiamiamole così, ma che venga da un gradato sotto l'investment grade. Sì, quello è il tema che abbiamo toccato ieri, cioè come mai Standard & Poor's ha portato la Grecia a un livello nemmeno da investimento, obbligando tutti voi a dire entro quanto sareste usciti dagli investimenti fatti in Grecia, perché quando tu hai l'obbligo di investire solo su titoli di qualità, cioè a un livello investment grade come si chiama, se le agenzie di rating lo abbassano questo livello, lo portano sotto l'euro di investimento, tu sei obbligato per contratto a uscire, questo amplifica ulteriormente le vendite. Un'ultima domanda, Beltrame, perché siamo in conclusione della prima parte, lei che deve gestire i patrimoni adesso cosa fa? Cioè, non nel senso che perde il lavoro, ma domani che fa? Beh, domani Noi eravamo fortunatamente dall'inizio dell'anno abbastanza sottopesato sul settore finanziario, per tutta una serie di ragioni che anche lei ha esternato prima e abbiamo raccontato, quindi probabile che su questi forti ribassi qualcosina, qualche leggera riduzione del sottopeso, pur mantenendolo nel settore finanziario, lo faremo. Di certo bisogna mettersi molto prudenti, perché questo trend potrebbe essere un trend laterale che continua ancora per qualche settimana. Sì, il trend laterale, per carità, il trend laterale va bene, però insomma, ma lei domani compra? Sicuramente già qualcosa in fine giornata abbiamo fatto. Ah, ecco. Direi di sì. A questi prezzi le compra. Cosa compra? Qualche banca italiana, secondo me sono un po' meno esposte sulla parte di governativa, e sicuramente la parte di debito sulla parte medio breve, ecco, questo sicuramente. E cosa non compra? Corporate, cioè? Per quanto riguarda titoli corporate, titoli di emittenti corporate, soprattutto finanziari, da questo punto di vista, perché potrebbero allargare un po' gli spread, perché hanno allargato gli spread dei titoli governativi e stanno allargando anche i titoli governativi anche dei paesi periferici a seguito di questa situazione dell'alta volatilità, e quindi quello sicuramente non è il caso di incrementarlo, soprattutto perché i corporate avevano stretto tantissimo gli spread verso i titoli governativi. E non dal punto di vista azionario, ecco, non vendo nulla, e al limite se interveniamo a complicare qualcosa sul settore finanziario, ma ribadisco rimanendo ampiamente sottopesati rispetto al settore azionario. Quindi no obbligazioni, sì qualche banca, e poi comunque sottopesati. No, mi interessava saperlo, visto che appunto no obbligazioni corporate, no obbligazioni societarie, non obbligazioni societarie, ragione. In ottica prospettica è meglio avere i titoli governativi, che per quanto aumenti la volatilità sono molto liquidi, al contrario, tranne i greci, i titoli greci, ecco, da questo punto di vista, ma sicuramente lo sono di più dei titoli corporate, obbligazionari corporate, anche di società valide, che però potrebbero subire appunto un allargamento di spread. Parlo da gestore, ecco, in ottica di gestione. Parlo da gestore, certo, ci mancherebbe. Allora io grazie, la ringrazio, vediamo domani se avrà fatto bene lei a comprare i bancari. Per ora, diciamo, vedo il dato finale: Unicredit meno 7,50% a 1,85 euro, Intesa meno 7,21, Exor meno 6,90, Banco Popolare meno 6,77%. Grazie a Daniele Beltrame, direttore generale di Aperta SGR. Grazie a lei, gli ascoltatori. Allora, vedo che alcuni dicono: ma questa è solo speculazione, domani si recupera quello che oggi è calato. Bah, non è che sia andata così negli ultimi mesi, anzi si è recuperato un po', ma poi si è tornati a scendere. Altri ascoltatori che dicono: ma insomma, il problema è che le borse avevano corso troppo, non considerando il fatto che l'economia non sarebbe ripartita. Sì, l'abbiamo detto. Quello che adesso lo dico molto tranquillamente, ma quello che è da capire in questo momento è se c'è qualcuno che sta facendo il furbetto e rischia e magari si brucia anche, oppure se il gioco che è partito a livello di area euro è il gioco del cerino, per cui prima si bastona la Grecia, poi si va a bastonare il Portogallo con un occhio verso la Spagna, poi si arriva anche a bastonare la Spagna. La Spagna ha un piccolo problema, non ha un problema di debito come c'è l'Italia, però attenzione, perché ha una disoccupazione stratosferica del 20%, e poi soprattutto ha un'economia basata molto sul settore finanziario, banche, sul settore immobiliare, che è in crollo in Spagna, e sull'assemblaggio auto, altro settore, insomma, non è che quest'anno le prospettive delle immatricolazioni auto siano incredibili. Ecco perché, diciamo, potremmo dire che la Spagna ha un'economia poco diversificata. Comunque, meteo, pubblicità e poi il resto della borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, volete sapere gli indici? Mamma mia, che masochisti. Meno 4,70 Milano, meno 3,60 Parigi, meno 2,60 Francoforte, meno 2,60 Londra, meno 1,90 adesso l'America. Ripeto, non ci sono queste notizie terribili. Hanno ragione alcuni ascoltatori a dire, ma insomma, i dati macroeconomici, penso all'andamento del settore manifatturiero americano di ieri, sono tutto sommato abbastanza buoni. Anche il dato sulla cassa integrazione di oggi in Italia è abbastanza buono, ma non frega nulla ai mercati. Mi dicono che anche Jim Rogers, che non è un leader di un gruppo musicale, ma è uno dei fondatori del fondo Quantum assieme a George Soros, si sia messo a vendere contro l'euro, quindi a scommettere in un ulteriore calo dell'euro. L'euro è sempre fermo a quota 1,30, 1,303 per la precisione, sui titoli bancari adesso diremo anche dell'altro. È vero che il premier spagnolo Zapatero ha reagito dicendo insomma sulla Spagna ci sono solo speculazioni. È vero anche che per la disoccupazione in Spagna è calata per la prima volta da luglio, cioè siamo al 20% della forza lavoro, ma è anche vero che l'interesse sui i tassi di interesse sulle obbligazioni spagnole sono saliti al 4%, la differenza con l'obbligazione tedesca è passata da 104 punti in 1,04%, per cui al 4,08%. Non è un livello greco, ma è nemmeno lontanamente un livello greco. Però, allora, volete sapere che cosa ha detto l'astrologa? Intanto ringrazio e saluto l'onore Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, l'onore. Buonasera a tutti. Non so oggi cosa commenteremo. Sì, qualche caso specifico, CareSelf, che ha guadagnato, perché gli energetici calano, perché insomma sui bancari c'è poco altro da dire, però ascoltiamo l'astrologa a inizio gennaio cosa aveva detto. Allora, prima di tutto, il 18 di gennaio Giove lascia il segno dell'acquario. Oddio. E si trasferisce nel segno dei pesci, per cui viene meno quella protezione che aveva espresso nel 2009, però le cose sono abbastanza direi fluttuanti, e nel segno dell'acquario, oltre alla sparizione di Giove, dobbiamo registrare il percorso di Lilith, la luna nera, che è il secondo fuoco dell'ellisse lunare, che è un fattore di disturbo, di pettegolezzo e di eventuali piccoli scandali che si possono manifestare tra adesso e il prossimo mese. Vabbè, di in giugno. Effetti di pettegolezzo e piccoli scandali non abbiamo avuti nel 2009, quindi ci penserà la luna nera di Lilith, va bene? Sì, esatto. No. E poi per quanto riguarda invece i mercati a livello internazionale, abbiamo un discreto mese di aprile e anche seguito da qualche buon risultato in maggio, mentre si segue il solito criterio che l'autunno è più difficile e specialmente novembre potrebbe riservare qualche rischio alle borse di New York, di Tokyo e di Londra, che sono tutte e tre nate nel segno del toro. Insomma, non è che ci avesse proprio imbroccato, perché insomma un buon aprile e maggio, questa dimostrazione che la differenza tra i trader e l'astrologia resta comunque simile. Non ci hanno imbroccato quelli che hanno previsto borse in rialzo, ma nemmeno l'astrologo, che ha detto invece la parte peggiore arriverà a novembre. Speriamo si sia sbagliato anche su questo. Eleonora Micheli, di cosa parliamo prima del traffico, tranne che dei bancari, perché insomma vanno male in tutta Europa? Unicredit meno 7,40, Intesa meno 7,20, Banco Popolare meno 6,70, Mediolanum meno 5,50, Unipol meno 5,20, Banca Popolare meno 5,1, Ubibanca meno 5, Mediobanca meno 4,90, Generali meno 4,70, Fondiaria meno 4,70 pure lei, Monte dei Paschi meno 4,40, e mi fermerei qui. Altri titoli, gli energetici, come mai tutti in pesante calo, meno 3,15 Eni e meno 3,22 Enel? E meno 3,30 a 2A. Un po' in tutto il mondo, perché abbiamo visto che il settore a livello appunto settoriale subisce il contraccolpo della marea nera negli Stati Uniti. Bancari, come hai detto tu, sono andati male perché si teme l'esposizione sui titoli della Grecia, ma anche della Spagna, del Portogallo. In aggiunta è stato reso noto che la Consob ha richiamato 6 banche italiane che non hanno rispettato le indicazioni della MiFID e si richiedono in particolare consigli di amministrazione da parte di questi istituti, che sono nel dettaglio Unicredit, Monte Paschi, Banco Popolare, BNL, che adesso è controllata da BNP Paribas, e Intesa San Paolo, praticamente tutti i maggiori istituti italiani. Sì, Piazza Affari tra l'altro ha fatto peggio, proprio perché il listino è ricco di titoli bancari, che peraltro poi va considerato un'altra cosa, che dalle ultime trimestrali, soprattutto a livello mondiale, era emerso chiaramente che le maggiori banche, soprattutto banche d'affari, avevano visto salire i propri conti trimestrali facendo del trading, chissà che adesso non lo stiano facendo al ribasso. Eh beh, mi sa proprio di sì. Comunque, traffico e poi altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, dicevamo degli altri titoli, oltre ai bancari, oggi veramente, giustamente gli ascoltatori dicono, ma insomma Fiat è un bancario, meno 6, 60 Fiat, Eleonora meno 6, 90 Exor. Sì, Fiat invece paga ovviamente il resoconto sulle immatricolazioni di aprile, che è stato reso noto ieri dal Ministero dei Trasporti. In particolare il gruppo del Lingotto ha visto scivolare le vendite di nuove auto del 26,2%, mentre il mercato ha perso il 15,65%. In pratica il Lingotto ha fatto molto peggio del mercato, tant'è che ha perso anche quote di mercato, con una quota che è tornata al 30,7%. E dopo la corsa registrata dai titoli nelle ultime settimane sull'annuncio anche dello scorporo di alcune divisioni, ovviamente oggi sono scattati copiosi ordini in vendita. Sì, devo dire che anche questa cosa mi sorprende un po', perché insomma il dato di ieri l'abbiamo raccontato in diretta, ma nessuno si immaginava un aprile buono come immatricolazioni, perché gli incentivi non ci sono più. Strano che il mercato si svegli adesso. Comunque sicuramente poi quando c'è un'ondata ribassista, tutti a vendere e vengono amplificati anche i cali. Fiat sotto i 10 euro operazione, 9,35 euro. Male CIR meno 5,80, Italcementi meno 5,60, Prismian meno 5,50, lasciando stare Azimut meno 5,20, lasciando stare comunque i titoli bancari, ma per far capire come ormai sia questo il tono, in maniera anche abbastanza indiscriminata e indistinta, ST Microelectronics perde il 5,1. E poi Mediaset il 4,50, Bulgari perde il 4,30. Obiettivamente non si capisce perché i titoli che hanno buona parte del fatturato in dollari debbano calare, Leonora, perché insomma il dollaro si sta rafforzando. Allora, se qua, Geox meno 4%, Autogrill che fattura metà in dollari meno 3,70%, o no? C'è un motivo anche lì? Ma in questo caso ormai è panico generalizzato, si pensa a livello di grandi settori, si praticamente alleggerisce il portafoglio. Peraltro è anche un po' un comportamento isterico, perché del resto va considerato, a livello, facendo dei paragoni, che l'intervento nei confronti della Grecia, 110 miliardi in 3 anni, è inferiore all'intervento che lo Stato americano aveva fatto nei confronti di ING, che era pari a 150 sì, miliardi. Sì, il timore però, come raccontavamo prima, è che la Grecia non sia che l'inizio. Adesso parliamoci chiaro, io penso che siano speculazioni in qualche modo prive di fondamento, ma è un pensiero personale. È ovvio che in questo momento l'obiettivo non è più la Grecia, è la Spagna, lo vediamo benissimo da quello che è successo in Spagna, cioè la scommessa che tutta l'area euro verrà messa sotto sorveglianza perché i conti non sono in ordine. Di questo però parleremo nella seconda ora. Una battuta al volo, perché poi ho anche le interviste a Gurria e a Tremonti. Il CareSelf, sottotitolo è giovani che continua a crescere, ma che è successo? Allora, nei giorni più 4% scorsi, oggi. Nei giorni scorsi i vertici della società avevano rivisto al rialzo i target futuri per i prossimi mesi. Gli obiettivi futuri, sì. Esatto, e quindi questo è stato ovviamente apprezzato dal mercato. In aggiunta oggi c'è stata l'assemblea straordinaria della società, riunitasi in terza convocazione, che ha approvato di prorogare a marzo 2011 la scadenza del prestito obbligazionario. E quindi un'altra notizia positiva per i titoli, sì, che hanno fatto salire così le quotazioni. Grazie Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. E allora, qualcosa di positivo c'è, si chiama il commento del segretario generale dell'Ocse ai nostri conti pubblici e a come l'Italia si è mossa, come Tremonti ha tenuto botta alle richieste di maggiore spesa della pubblica amministrazione, spesa comunque pubblica, e anche risparmi effettuati grazie alle varie riforme, risparmi per le piccole e medie imprese. Ascoltiamo allora il segretario generale dell'Ocse e subito dopo anche il ministro Tremonti per quello che riguarda, anzi facciamo così, sentiamo prima il segretario generale dell'Ocse e poi dopo il GR sentiamo anche Tremonti. Dopo aver eliminato molte leggi inutili, 7.000 nel 2008 e altre 29.000 del 2009, La ghigliottina normativa sta diventando un tratto caratteristico dell'Italia. È un esempio che noi menzioniamo sempre come importante ai nostri paesi. Nella stessa linea, a marzo 2010 sono state abrogate oltre 70.000 norme e sono stati semplificati ulteriormente gli adempimenti richiesti per il lancio di nuove attività economiche. L'Italia ha inoltre mostrato un deciso impegno per creare un'amministrazione pubblica sempre più efficace. Ciò ha consentito di svecchiare le prassi gestionali e favorito la diffusione di meccanismi più centrati sulla qualità delle prestazioni e orientati ai risultati. Grazie a queste misure, il deficit di recepimento rispetto agli paesi delle normative dell'Unione Europea è stato colmato. Si stima che nel solo 2009 gli sforzi di riduzione degli oneri amministrativi hanno abbassato di oltre 4 miliardi di euro i costi annui per le imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni. Poi sentiremo anche l'intervento del Ministro Tremonti. Vedo che molti ascoltatori ricordano anche le parole di Mario Draghi di ieri. Avete ragione, non abbiamo parlato. Il governatore della Banca d'Italia ha detto attenzione, perché non tutta la situazione è sotto controllo. Ci potrebbero essere altri casi di fragilità nei conti pubblici. Oggi evidentemente questo è quello... la risposta del mercato di oggi è abbastanza netta. Chi contesta l'astrologa, adesso non so, piove, sembra di essere a novembre, i mercati calano, almeno sorridiamo. Dopodiché l'astrologa, lo dico per chi, a chi ci scrive, aveva sbagliato pure lei, quindi nessuno è infallibile, nemmeno gli astri, il GR, e poi di nuovo a parlare di borse ed economia europea. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare ancora da un punto di vista più macroeconomico e meno come cronaca del mercato di quello che è successo di nuovo oggi. Chi si fosse appena messo in collegamento, ricordo cali pesantissimi in tutte le borse europee, tra le peggiori Milano, meno 4,70, con le banche, che ossia Unicredito meno 7,4, Intesa meno 7,2, a pagare di più, anche se Exore e Fiat non scherzano, perdono 6,9% Exore, il 6,6% Fiat, Pirelli 6,7%, il Banco Popolare il 6,7% anch'esso, e poi tutti gli altri titoli che abbiamo poc'anzi ricordato. L'America perde sempre il 2%, è meno 2,1%, che è tanto per il Dow Jones. Vorrei far ascoltare, visto che abbiamo sentito Gurria, segretario generale dell'Ocse, anche il commento del ministro Tremonti, che ha parlato da un lato delle regole, che troppe regole ostacolano lo sviluppo, però poi ha detto anche sul fisco: l'Italia è l'unico paese dell'area euro che ha un obiettivo di riforma fiscale. Confermo l'obiettivo della riforma fiscale, è fondamentale, e proprio perché è fondamentale chiederemo il supporto del Fondo Monetario, della Commissione Europea e anche dell'Ocse. Avremo, credo, un grande dibattito scientifico, tecnico, non solo domestico ma anche internazionale. Poi la responsabilità sarà nostra, ma è fondamentale che ci sia una base di lavoro e di idee e di simulazioni di impatto, scelte di direzione, la più ampia e la meno domestica possibile, anche perché forse avete notato l'Italia è l'unico paese che si pone questo obiettivo, non in altri paesi c'è l'obiettivo di una riforma fiscale ampia, strutturale e in un qualche modo capace di portarci nella modernità della globalizzazione. Non so quanto è difficile, credo sia molto difficile farlo, però se guardate in giro non trovate paesi che hanno questo obiettivo. Come Così, ministro Tremonti, volete sapere di Liguria? Insomma, per così sdrammatizzare una seduta pesantissima, l'euro resta a quota 1,30, malissimo le borse in Spagna, Madrid e anche in Portogallo, oltre che la Grecia, ma la Grecia non fa più notizia. Beh, insomma, abbiamo un po' scherzato, ve lo facciamo risentire per appunto per sdrammatizzare, perché il segretario generale dell'OCSE oggi è in visita a Roma per presentare il rapporto sull'Italia. Aveva esordito questa mattina con una frase che poi si è rivelata leggermente così, infausta. Abbiamo buone notizie, finalmente. Io ho detto molte volte che abbiamo preso troppo tempo per arrivare a questo momento, ma già lo abbiamo, già siamo là. Io spero che i mercati hanno una reazione positiva. La speranza è l'ultima a morire, però insomma mai frase fu più così fuori tempo come quella del segretario generale dell'OCSE questa mattina, che insomma abbiamo finalmente buone notizie, ci abbiamo messo un po' di tempo a organizzare, i paesi europei ci hanno messo un po' di tempo a organizzare il salvataggio della Grecia, ma adesso c'è, i mercati ne prenderanno atto, sì, si è visto, infatti meno 3,60 a Parigi, meno 2,60 a Francoforte. Vabbè. Andiamo avanti, perché della situazione attuale ha parlato oggi, lo ha fatto intervistato dal nostro Mario Pratero, anche l'uomo che da molti viene visto come il guru, Nuri Rubini, il guru degli economisti, l'unico, il primo che mise in guardia rispetto alla bolla, la doppia bolla immobiliare e finanziaria che si stava creando, lo fece già nel 2006. E allora l'intervista integrale andata in onda oggi nel programma appunto America 24, però secondo Nuri Rubini, che insegna alla Columbia University, gli aiuti decisi nel weekend sono insufficienti. Ora, l'intervista è stata fatta ieri sera, per cui in questo caso prendetene atto, perché la capacità predittiva resta. Sentiamo Rubini criticare gli aiuti per la Grecia. A mio parere i problemi del debito della Grecia non potranno essere risolti tramite una riduzione di questo deficit fiscale, perché la riduzione è enorme, si aspettano un 10% del PIL di riduzione delle spese o aumento delle tasse, che secondo me è quasi impossibile da ottenere. È meglio pensare a un programma nel quale, in aggiunta a questo aggiustamento fiscale, vi sarà una ristrutturazione del debito pubblico della Grecia, cosa che è stata fatta in altri paesi emergenti nell'ultimo decennio, quindi una trasformazione delle maturità del debito, spingere nel futuro, ridurre il tasso di interesse sul nuovo debito in una maniera tale che il debito rimane più basso e più sostenibile. E questa è la prima stoccata, e poi la seconda stoccata. Quali differenze ci sono tra Portogallo, Spagna e Atene, quindi e Grecia? Nuri Rubini. Per certi aspetti la Spagna è una situazione migliore della Grecia, perché il deficit e il debito pubblico rispetto al PIL sono più bassi e l'ammontare dei risparmi nazionali rispetto al PIL più alta, ma ci sono quattro dimensioni nelle quali la Spagna è in una situazione peggiore. Uno, il tasso di disoccupazione al 20%, mentre è solo 10% in Grecia. Due, la Spagna ha avuto una bolla immobiliare che adesso si è esplosa, e quindi i costi sull'economia reale di questa crash sono pesanti. Tre, le banche spagnole hanno adesso delle grosse insolvenze, i costi fiscali di salvare le banche spagnole saranno molto alti. E quattro, nel periodo del boom economico in Spagna la perdita di competitività fu anche maggiore rispetto alla Grecia, perché i salari crescevano ancora più velocemente rispetto alla produttività. Quindi sotto queste dimensioni le cose potenzialmente in Spagna sono ancora peggiori che in Grecia. Eccolo lì, e non a caso oggi, lo ripeto chi ci sta scrivendo, tutto è partito come vendite, soprattutto sulle banche spagnole e portoghesi. Anche la borsa di Atene è andata male, ma oggi a fare notizia sono le borse di Madrid e di Lisbona. Vedremo poi su quali presupposti si basa questo ragionamento. Intanto saluto per averci raggiunto in collegamento Alberto Bisin, che è economista, insegna nella New York University, editorialista della Stampa. Buonasera professore. Buonasera, buonasera. Devo dire che va dato atto a chi scrive le cose prima che capitino, e anche se non fa l'astrologo, diciamo che lei aveva messo in guardia ancora quattro giorni fa in un articolo sul Foglio, dicendo: attenzione, l'Europa che salva la Grecia non tutela affatto i mercati europei. Però l'ultimo passaggio di Rubini che vi faccio ascoltare dell'intervista di Mario Platero riguarda invece un aspetto quanto mai delicato. Perché? Perché insomma, che sia negativo sulle tendenze future siamo tutti d'accordo, però è interessante il suo giudizio sul ruolo di hedge fund, cioè i fondi molto molto speculativi. In questo momento l'untore si chiama speculazione. A mio parere la verità è un po' a metà. Da un lato gli speculatori non potrebbero attaccare in maniera forte paesi i cui fondamenti economici e fiscali sono forti, quindi la debolezza dei fattori di policy è la causa di questi attacchi, quindi non si può semplicemente criticare gli speculatori. Da un altro lato, quando i fondamentali economici sono deboli, è molto più facile poi per gli speculatori cercare di colpire un paese, e quando vendono del sangue per la strada poi, come gli squali, attaccano più pesantemente. Quindi la verità è un po' di mezzo. E allora, professor Bisin, secondo me la domanda è a questo punto la seguente. Cioè, si sta veramente scommettendo in un gioco al cerino per cui bruciato quello greco si passa al Portogallo con l'occhio verso la Spagna, oppure diciamo così c'è il tentativo di mettere sotto tutela l'intera area euro e quindi dire: attenzione, voi con questi conti non andate da nessuna parte? Dopo il traffico, la risposta. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, di nuovo in diretta, vi do anche le chiusure di Atene, meno 7%, Madrid crolla, meno 5,41%. Professor Bisin, chi è che sta scommettendo a questo punto? Io posso capire la Grecia aveva degli elementi molto forti, va truccati i conti, li va truccati in maniera devastante, invece che quel 4% di deficit, abbiamo scoperto che aveva il 14%. Ma la Spagna, pur con tutta la debolezza della sua economia, perché? E perché il Portogallo, pur con la debolezza della sua economia, lì non ci sono conti truccati, i conti già si conoscevano. Sì, no, non c'è dubbio, in questi casi i conti si conoscevano. È vero però che questi paesi sono abbastanza al limite la situazione. Sostanzialmente gli speculatori stanno speculando, a mio parere, sull'incapacità dei governi di rientrare coi conti pubblici. Sì, ma allora perché non speculano anche sull'America? Cioè l'America ha un deficit che viaggia al 14%, se ho ben capito, del PIL, cioè modello greco. Prego. No, certamente, ma intanto per cominciare, negli Stati Uniti il carico fiscale è molto più basso, quindi c'è, come dire, un margine di possibile intervento. Diciamo, in questi giorni non si parla altro che di nuove tasse. C'è un margine di intervento che non è piacevole, che avrà grossi costi sull'economia americana, ma che non mette gli Stati Uniti a rischio, mentre in un paese come la Spagna, con, come diceva anche Nuriel, con 20% di disoccupazione, è molto difficile intravedere un rientro rapido, e su questo scommettono gli speculatori. Nel caso della Grecia ovviamente c'è la questione del fatto che i conti sono stati truccati, ma la realtà dei fatti è che il paese farà enorme fatica a rientrare, come stiamo vedendo, perché ovviamente la spesa è enorme. Quando la spesa è così alta, spesso viene considerato ovviamente diritti acquisiti, un diritto acquisito dalla popolazione, e quindi si fa fatica a rientrare. siccome la questione è tutta lì, poi è chiaro. Vorrei capire, quando vedo che poi insomma George Soros, Jim Rogers, i grandi speculatori del fondo Quantum, ex fondo Quantum, insomma, sono tutti contro l'euro. Io mi chiedo, perché il caso greco è il caso greco, ma la Grecia conta nulla, non si offendono i greci, conta come la Lombardia. Allora, va bene, c'è una regione dell'Europa che ha truccato i conti, viene bastonata, verrà bastonata dal mercato, ma qui si sta scatenando un'ondata di ribassi su tutta l'Europa. Cioè, quando Parigi perde il 3,60, Milano il 4,70, di cosa stiamo parlando? Cioè, non è che c'è qualcosa di più rispetto a questi speculatori che sembrano sempre un po' così tra la verginella e il cane sciolto. In realtà non vorrei che dietro la parola speculatori vi fossero manovre un po' più di politica economica, di strategia, anche di politica estera, o no? Oddio, questo di strategia di politica estera onestamente non lo so. Che gli speculatori, che questo sia un momento in cui oggettivamente gli speculatori vadano a nozze, è chiaro, perché poi il panico si sviluppa, insomma, l'effetto contagio panico c'è, e quindi è chiaro che questo è il momento in cui se uno ha la capacità e i fondi di farlo può guadagnare dei soldi. Quindi sempre quando ci si pone in queste situazioni c'è grossissima volatilità, insomma. Però lei abbia comprensione di me, come i suoi colleghi. Io devo spiegare a chi è in ascolto come mai, dopo che i paesi dell'area euro si incontrano domenica, fanno un annuncio, piano da 110 miliardi, tutti d'accordo, anche la Germania, che era diventata capro espiatorio per alcuni versi, ma comunque va delle grosse responsabilità, ieri tutto abbastanza tranquillo, oggi è una nuova bastonata. Beh, io quello credo che sia, insomma, la politica dell'Europa in questo è stata lenta, mal riposta, mal strutturata, con i nomi, con diciamo proprio l'idea di fondo sbagliata, questa idea di aiutare la Grecia sapendo che è essenzialmente impossibile in queste condizioni, e comunque evitando lasciando vago la struttura dei meccanismi di intervento in caso succeda qualcosa alla Spagna o al Portogallo. Insomma, tutto questo, tutta questa incertezza, questa vaghezza negli interventi non fa che ovviamente dare spazio agli speculatori e comunque agli interventi, insomma. Non c'è un rischio ancora più grosso, cioè che questi soggetti abbiano capito che già è stato difficile salvare un paese piccolo e remoto economicamente, infatti, come la Grecia, e per l'Europa diventerà impossibile salvare la Spagna? Infatti lo è impossibile salvare la Spagna. La questione è, i fondamentali della Spagna sono tali per cui riusciranno, diciamo, a rientrare in maniera più o meno ragionevole in fretta o no, perché se il mercato, una parte del mercato sta scommettendo di no. Se questo è vero non c'è niente da fare, ma e allora che facciamo? Purtroppo non c'è niente da fare. Sì, no, ma dico, ma che facciamo? Perché cosa può succedere? E allora si ristrutturano i debiti e si prendono le perdite. Le banche tedesche, le banche francesi e quelle spagnole dovranno metabolizzare le perdite, non c'è niente da fare. Dopotutto, insomma, i greci stavano manipolando i conti, ma i tedeschi, i francesi, soprattutto le banche tedesche e francesi, si stavano comprando quei titoli a tassi di interesse ridicoli, esposti ridicoli. Insomma, qualcuno qui ha fatto degli errori madornali. E alla fine queste cose, i nodi vengono al pettine. Per cui lei mi sembra di capire che ritiene, no, io la considero una delle persone più serie di quelle che abbiamo ospiti, che non vuol dire nulla, ma insomma, lei ritiene che sarà tutta l'area euro a essere messa sotto tutela? Io credo di sì, credo che certamente, diciamo, il Sud Europa è quello che ha maggiori problemi in termini di bilancio, quindi i paesi attaccati saranno quelli, perché sono quelli che richiedono un rientro di politica fiscale e che è difficile riescono a farlo. I paesi invece un pochino più solidi, come la Francia e la Germania, invece sono esposti attraverso le banche. Quindi loro ovviamente da un punto di vista di politica economica sono molto più solidi e stanno meglio, però insomma dovranno in qualche modo accettare. Mi scusi professor Bisini, un'ultima domanda rapidissima: noi siamo più vicini alla Germania o alla Spagna? Noi siamo più vicini alla Spagna, purtroppo, perché se da un punto di vista, diciamo, di breve periodo, durante la crisi il nostro governo, io credo, abbia fatto molto bene cercando di limitare spese inutili, quindi nel breve periodo siamo fuori. Ovviamente nel lungo periodo noi abbiamo una situazione di scarsa crescita, spesa fuori controllo, tasse elevatissime e mal ridotte, mal strutturate a causa di un'enorme evasione, quindi il tutto assieme ovviamente ci mette... Sì, a questo punto però se ne esce solo chiedendo alle banche di pagare di più. Io adesso non so come potranno fare, la Germania già l'ha preannunciato questo, che chiederà alle banche di partecipare al salvataggio greco. Cioè, siccome tutta questa situazione, se qualcuno se lo fosse dimenticata, è nata grazie agli investimenti folli e derivati della finanza internazionale, Wall Street, ma anche la City, anche Francoforte, forse a questo punto da qualche parte i soldi andranno chiesti. Vedremo. Assolutamente. Domani, sì, domani un altro giorno, tanto lei sta in America, bisogna, a quel punto, no? Lei è più vicino a Washington che a Madrid o a Roma in questo momento. Grazie veramente. Perché come sempre è chiaro e molto anche diretto. Grazie quindi a Alberto Bisini, che è economista alla New York University. Da Sebastiano Berigione veramente tutto. Magari domani c'è il sole, no, dicono che sarà brutto fino a fine settimana, vedremo cosa faranno le borse. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.